Incontri di Gianfranco Fabi. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al ciel, così tu non sarai lontano quando brillerai. Con la voce inconfondibile di Adriano Celentano iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio a Michele Perini. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, buona domenica. Michele Perini, presidente di Saxa, mobili per ufficio, presidente della Fiera di Milano, presidente onorario del Museo della Scienza della Tecnica e altre cose che magari vedremo del nostro incontro. Ecco, Celentano ha avuto un grande successo questa settimana con le sue esibizioni a Verona. È un ammiratore di Celentano? Ma direi che, avendo la passione di suonare il pianoforte, mi piace suonare le sue canzoni. Le sue canzoni sono molto melodiche, ma hanno anche dei contenuti magari un po' rivoluzionari. Lei è un imprenditore, Celentano è un fautore della decrescita, come lo vede, come economista? Ma come economista spero che sbagli cantante. Quindi ci vuole qualcosa. Ecco, il momento comunque non è facile, siamo in un momento complesso. Come lo definirebbe? Il momento economico-sociale? Si parla di crisi, siamo tutti d'accordo. Il momento è un po' come quando l'impero romano d'Occidente lasciò lo spazio ai barbari. E quindi, perché? Se andiamo a vedere le motivazioni, è perché era meno coeso. Quindi il vero problema è la coesione nazionale, il fatto che siamo un paese di campanile, un paese troppo diviso, un paese dove molte persone pensano che star più furbi degli altri serva al paese. Invece questo si è dimostrato proprio ancora di più in questi giorni, in quanto questo sia sbagliato, perché poi i conti li pagano tutti. Ecco, ci sono dei problemi in questo momento che richiederebbero appunto la coesione nazionale, ma questa visione che, per cui ci possono essere sempre due soluzioni, una di destra, una di sinistra, una di sopra, una di sotto, una giusta, una sbagliata. Ecco, questo bipolarismo a tutti i costi non è un po' un limite per un paese che debba riprendere il cammino? In parte sì, in parte no, perché io credo che poi le ricette destra o sinistra o quel che si voglia siano sempre quelle in cui bisogna in economia arrivare. Quindi il paese ha avuto una spesa di vita superiore a quello che il paese poteva permettersi, sono stati fatti tanti sprechi, sono state fatte tante cose sulle spalle soprattutto del mondo imprenditoriale e dei lavoratori, che io credo che sono la cosa migliore che ha questo paese. Ecco, qualcosa che si pensava che si potesse lavorare a prescindere. C'era l'industria poteva dare le sue tasse, così come i lavoratori potessero pagare le loro tasse, ma non c'è stata per troppo tempo forse un'attenzione a far sì che questo cavallo trainante dell'economia della società venisse adeguatamente rifornito, adeguatamente protetto poi in fondo. Ma in fondo io credo che l'errore di noi imprenditori sia stato quello, almeno di molti, di cercarsi un mercato protetto, che vuol dire poi un mercato che ha difficoltà a diventare un mercato internazionale e quindi a prendere e muoversi per il mondo. Io dico che il mio prodotto fatto nella mia fabbrica, anche in Italia, non costa di più di quello dei cinesi. Quello che costa è tutto quello che c'è dal mio prodotto, dal cancello alla fabbrica, al consumatore, perché fra l'altro l'Europa ci ha messo del suo. Abbiamo 5 livelli legislativi: europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, poi ci mettiamo anche in alcuni casi sindacale, poi sì. Perché ci sono anche i vincoli di carattere operativo. E quindi alla fine il tempo che noi impieghiamo nei nostri consigli di amministrazione, nei nostri incontri per rispondere a questa enorme quantità di carte e di norme, ci toglie spazio nel creare nuovi prodotti, nuove opportunità. Questo è un dramma fortissimo nel paese, la gente non se ne rende conto, ma io ho avuto la fortuna di presiedere e siedere in alcuni consigli di amministrazione, non si parla più di sviluppo prodotti. Ecco, questo è il fatto, si parla di difesa, si gioca si molto parla in difesa. Abbiamo le carte che ci permettono di non avere problemi, abbiamo sufficienti carte, abbiamo i consulenti che ci dicono che tutto sommato questo ci mette al riparo, ma dov'è il concetto di rischio? Dov'è il concetto di impresa, dove io faccio impresa perché so che fare impresa vuol dire rischiare e mettersi certo in gioco ogni giorno? A me sembra che il paese l'abbia perso questo. Ecco, lei è stato presidente di Asso Lombarda nei primi anni 2000 fino al 2005 e dal 2003 è presidente di Fiera di Milano. Ecco, Fiera di Milano, il sistema fiere è l'esatto contrario del mercato protetto, è qualcosa che vuole dimostrare di stare sul mercato, di internazionalizzarsi. Come sono cambiate le fiere in questi 10 anni? Come sono cambiate anche il modo di rapportarsi? Come è cambiato il modo di rapportarsi delle imprese verso le fiere? Allora, teniamo presente che quando io sono entrato in Fiera Milano, era da poco in una fase di cambiamento, dove prima esisteva un ente che era l'ente autonomo Fiera Milano, e che quindi chi la chiama un ente ancora il giorno d'oggi non ha capito che sono passati secoli da allora. E Fiera Milano è un'azienda quotata, Cemento Star, è un'azienda che risponde alle logiche di mercato, e per rispondere alle logiche di mercato ha dovuto adeguarsi a quelli che sono i tempi. Dico sempre, una volta i nostri impiegati stavano al botteghino a aspettare i clienti che arrivavano, alle 5 tiravano giù la Claire come se fossero degli impiegati postali, e gli altri dovevano arrivare il giorno d'oggi. Tutto cambiato. Devono oggi riprendere la valigia, andare in giro per il mondo, vendere gli spazi, e fare gli accordi, fare delle alleanze. Quindi è diventato un mestiere che è di mestiere globale. Noi siamo delle piattaforme, siamo delle portaerei che permettono alle imprese di muoversi nel mondo. Ma dove possiamo farlo? Laddove ci sono settori industriali forti. Certo. Ecco, quando si parla di Fiera di Milano, io ricordo soprattutto per le persone di una certa età, oltre i 50 anni, va alla Fiera Campionaria di Milano, che a metà aprile, mi pare dal 15 al 25 aprile degli anni 50 e 60, è stato un po' lo specchio del miracolo economico italiano. Era una rappresentazione dell'industria italiana in tutti i suoi fasti, e era una fiera che accoglieva le persone. Adesso si tratta di fare delle fiere che vanno verso le persone. È cambiato il modo di fare fiera. Allora, al giorno d'oggi uno può avere un prodotto meraviglioso, può anche esporlo in maniera corretta, ma non è più sufficiente. La vetrina, il negozio attrae, ma non è abbastanza. Io non combatto contro la Fiera di Parigi o la Fiera di Londra, io combatto contro Londra o contro Parigi. Contro il sistema, è sistema paese, sistema città, che vince anche nel mondo delle fiere. Quindi la nostra capacità di portarsi avanti e convincere gli stakeholder, che anche loro fanno parte di un progetto industriale. Ecco, ma la fiera come luogo fisico ha ancora una ragione d'essere nell'era dell'ipercomunicazione, nell'era di internet, nell'era dell'iPad, degli iPhone, di tutto connesso, della connettività globale? C'è ancora spazio per la fiera, per una fiera tradizionale, che ovviamente poi non esaurisce il modo di essere, di rappresentarsi delle imprese? Io questa domanda l'ho posta, ho avuto la fortuna di incontrarlo personalmente, a Bill Gates. La sua risposta dice sì. Le fiere hanno senso because people need to meet people. La gente deve incontrare le persone. Quindi è ancora forte il tema del contatto umano, di capire dove è il trend di quel settore, dove sono le novità. Certo che se tu vuoi avere la specificità del prodotto vai su internet o chiedi la visita commerciale. Ma se tu vuoi capire dove sta andando un settore, la fiera è il tema più importante, perché dà l'indirizzo di politica industriale del settore. Ecco, la Fiera di Milano in quanto tale come si sta organizzando in questi anni per rispondere a queste esigenze? Cosa sta cambiando nel modo di proporsi della fiera verso le imprese, di aiutare, di fare sistema in fondo con le imprese? Ma noi siamo nati all'inizio dove vendavamo gli spazi a organizzatori terzi, quindi brutalmente diremmo facevamo l'affittacamere. Adesso invece abbiamo prima acquisito degli organizzatori, e poi abbiamo iniziato a fare una cura di concentrazione in maniera tale di non avere duplicazione di costi, eccetera. Quindi Fiera Milano adesso è un gruppo internazionale che fa 75 fiere a Milano e 60 fiere nel mondo. Quindi è un gruppo anche che, diciamo, organizza il know-how delle fiere e lo porta all'estero. Quali sono i mercati maggiori verso cui puntate in questo, quelli che possono dare maggiori soddisfazioni, che possono avere anche una maggiore logica per la presenza dell'industria italiana? Brasile, Cina, India, Russia, Turchia, Sudafrica. E adesso guardiamo anche agli Stati Uniti, anche sul mercato naturale. Quelli che vengono chiamati i BRIC, Brasile, esatto. Russia, India, Cina, sono i paesi che hanno tra l'altro ancora delle possibilità di crescita significative, e forse è l'unico modo per far crescere un po' l'industria italiana. E lì abbiamo acquistato degli organizzatori, quindi non abbiamo fatto l'agenzia come l'ICE, abbiamo portato le imprese italiane, abbiamo organizzato e comprato degli organizzatori locali. Insieme a loro abbiamo sviluppato fiere, portando anche alcune fiere che noi facevamo in Italia. Quindi dando prospettive anche all'industria italiana in questi ambienti, in queste nuove realtà, come magari lo vediamo tra qualche minuto dopo le notizie sul traffico. Incontri. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Una carezza e un pugno, ancora con Adriano Celentano. Riprendiamo il nostro incontro di oggi con Michele Perini, presidente di Saxa Mobili per Ufficio, presidente della Fiera di Milano, è stato per 4 anni presidente di Assolombarda e presidente onorario del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Una carezza e un pugno, un po' un modo per, forse un po' un paradigma di come anche le aziende devono approcciarsi un po' ai mercati, avere un po' di aggressività ma anche un po' di capacità di assecondarli, da presidente della fiera come... Ma questo non solo sui mercati ma anche con i collaboratori. Ci sono momenti in cui serve il pugno e momenti in cui serve il bastone e la carota, la si carezza. Diceva sì, anche. Diciamo, guarda, io sono un imprenditore che crede molto nella risorsa umana, nelle persone. Io credo che noi possiamo avere le più belle macchine al mondo, ma nessuno abbiamo gli uomini, le macchine non vanno. Non sono un appassionato di computer, lo uso perché se no sarei fuori dal mondo, però io quello che vedo è la capacità dell'uomo, soprattutto di questo nostro patrimonio incredibile che in Italia ha fatto delle cose stupende, basta pensare al design, questa gente che arrivavano e che con le loro mani hanno fatto dei prodotti meravigliosi che sono delle icone in giro per il mondo. Ecco, io dico anche ai ragazzi, è giusto studiare, andare all'università, ma ricordatevi che anche il lavoro manuale è un lavoro splendido, è un lavoro sul quale si può investire. Abbiamo bisogno di gente che sappia usare le mani e le sappia usare bene, perché le mani con l'intelligenza sono un grande biglietto da visita. Abbiamo bisogno appunto di creatività, di capacità di trovare appunto anche delle forme nuove di essere, e l'industria italiana nel suo complesso ha questa creatività, ha questa capacità di avere, di coniugare un po' il bello e il ben fatto, come si usa dire, quindi di essere presenti con della realtà che hanno un valore aggiunto sui mercati di esportazione. Ma difatti noi abbiamo ancora il codice civile che ha la parola regola d'arte. Ecco, questa regola d'arte è una parte fondamentale non solo anche della nostra Costituzione ma anche del nostro saper fare. Io credo che al giorno d'oggi ci sia molto bisogno di investire sotto questo aspetto, perché nel mondo forse della comunicazione, qui siamo in una radio, ma sembra che questi sono aspetti, sì, in fondo si sistema sempre. Alla fine c'è quello che deve tirare le righe e mettere a punto il progetto, il prodotto e portarlo sul mercato, e si fa tanta fatica perché i nostri competitor sono i cinesi, sono i malesi, sono gli indiani, sono i russi, sono in tutto il mondo, i giapponesi, i coreani, abbiamo visto cosa è successo nel mondo dell'automobile con l'entrata della Corea. Con questo, certo. Quindi bisogna pensare che al giorno d'oggi tu ti devi mettere in gioco ogni volta per ripartire con qualcosa che sia una sfida. Anche perché l'acqua calda è stata inventata. Certo. Ecco, sono sfide che si possono vincere, si possono vincere facendo crescere, però, facendo crescere i mercati. Sfide in fondo che si possono vincere in due, non c'è uno che vince e uno che perde, come nel calcio spesso... Lei è milanista, mi sembra. Certo. Spesso qualche squadra perde, magari un po' troppo ogni tanto in questo periodo, ma forse da parentesi, da lasciar perdere. Appunto. Assolutamente sì, in questo periodo. Ecco, quindi sono sfide in cui anche l'economia nel suo complesso può trarne vantaggio, se si vengono viste nel modo positivo. Forse in Italia c'è un po' di, diciamo così, di piangersi addosso? Ma c'è questo fatto che si parla sempre male del paese. Anche quando siamo all'estero, gli italiani hanno uno sport meraviglioso e vuole parlare male del loro paese. Mentre gli altri spingono per il loro paese. Il nostro vero problema è ritornare a fattori di semplicità. Se io dovessi assumere lei e stabiliamo quanto io le devo, né io né lei siamo in grado di leggere la sua busta paga. Abbiamo bisogno di un terzo. Cioè, ma dove siamo arrivati a finire? Cioè, il contratto tra due persone è talmente complicato che le due persone che l'hanno stipulato non sono in grado di leggerlo. Ecco, io faccio solo questo esempio. Sì, sì, è una capacità di complicare le cose in maniera incredibile. Eppure abbiamo delle grandi tradizioni. Dicevo prima, presentando, lei anche presidente onorario del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, che è uno dei, diciamo, dei luoghi di eccellenza in un certo senso nel suo ambito, nella rappresentazione di una capacità italiana. La sala di Leonardo, per esempio, è una cosa fantastica, pensando a cosa veniva fatto, veniva concepito secoli e secoli fa. Ecco, questo museo rappresenta in fondo una fiera non tanto rivolta al passato, ma per costruire un'innovazione sulla tradizione. ma soprattutto per dare un segno ai giovani. Noi abbiamo più di 300.000 ragazzi che vengono dalle scuole a sperimentare. Abbiamo insieme al direttore Galli, che devo dire ha dato un impulso molto forte al museo, abbiamo aperto il museo in maniera differente rispetto a una volta. Non ci sono più solo le vetrine, ci sono i corsi, dai bambini che iniziano già a capire cos'è una bolla di sapone, piuttosto che altri incontri con le scuole, con i docenti. E quindi è un incontro importante per la cultura del paese, per la cultura industriale, per la storia. Poi i nonni che arrivano dicono: questo l'ho fatto io, e quindi è un segno di orgoglio. Cosa manca? Manca la capacità del pubblico, inteso dell'amministrazione pubblica, di capire un valore come... Certo, soldi non ce ne sono. Il Museo della Scienza di Milano si autofinanzia per quasi il 70%, diciamo, delle risorse, forse anche qualcosa di più, e fa una fatica tremenda. Certo. Ecco, ma in un paese civile, in un paese che guarda il futuro, dicono che la differenza tra un politico e uno statista è che il politico guarda gli elettori di oggi, lo statista guarda gli elettori di domani. Ecco, noi dobbiamo guardare ai ragazzi di domani. Io ho 60 anni, la mia parte l'ho già fatta. Certo, potrò dare ancora un contributo, ma io penso che nella mia azienda, come in Fiera Milano, come dove io ho potuto lavorare, io ho puntato soprattutto sui giovani, anche perché hanno una velocità nel capire, nel muoversi, nel spiegare, nel comunicare, che noi non abbiamo. Ognuno ha avuto nel proprio periodo quello che poteva fare, adesso è il loro tempo. Io dico che in politica domani mattina cercherei di azzerare tutto e mettere il paese in mano ai trentenni e quarantenni. Ecco, questo è certamente una possibilità, un'opportunità, ma anche un problema, perché i trentenni e i quarantenni vanno comunque aggiornati, devono tener conto dell'esperienza, devono avere la forza, il dinamismo, la capacità dei giovani, ma devono anche tener conto appunto delle esperienze, delle tradizioni in fondo di un passato. In questo paese forse però la spinta del rinnovamento è ancora troppo poca, la resistenza delle oligarchie e dei vecchi notabili è ancora troppo forte sul fronte soprattutto della politica. Ma direi proprio di sì, ma non solo nel mondo della politica, anche nelle professioni, e vediamo lobby, non voglio fare il nome di professione perché se dico uno poi mi dimentico l'altro, poi mi attaccano i magistrati piuttosto parliamo che male i di giornalisti, che va bene sempre. No, io dico, ho esagerato quando dico magari il paese di trentenni e quarantenni, però dare un segno di un grande rinnovamento affiancando i ragazzi che si prendono responsabilità va fatto. Ma ad esempio, ma perché le persone che hanno dovuto uscire dalle aziende perché nella pensione ormai è cambiato tutto il sistema, ma non possono affiancare le aziende magari non pagando più contributi, ma prendendo anche uno stipendio più basso ed essere loro stessi di guida ai ragazzi? Ma perché dobbiamo bloccare il paese solo attraverso queste cose che questa riforma deleteria che ha fatto il ministro Fornero ha solo creato grandi problemi all'assunzione di giovani in entrata? Ecco, però c'era qualche problema sul fronte dell'uscita, del fronte della... era un paese un po' bloccato sull'adorazione dello statuto dei lavoratori, forse. Ma è cambiato qualcosa? Io domando a lei, che è uno che legge come leggo io, non è cambiato assolutamente niente. Questa riforma è veramente la negazione per i giovani ad avere un posto, perché in un mercato che non è un mercato stabile, come si possono pensare a creare occupazione stabile? Cioè, quando il PIL andava su negli anni 60, questo forse aveva senso. Ma adesso io dico, se fossi un ragazzo di 20 anni, io andrei con i fischietti a dire al ministro: preferisco fare la mia fattura alla partita IVA piuttosto che fare il disoccupato per un anno. Beh, anche nei giovani sta crescendo però questa convinzione, appunto, che il posto da precario è un posto che comunque costruisce un'esperienza e comunque costruisce un percorso di un mondo del lavoro che certamente non è quello di prima e quindi che può essere affrontato. Forse bisognerebbe dare ai giovani qualche speranza in più, perché sono anche molti giovani che le cercano all'estero queste speranze. Assolutamente sì, ma io le faccio l'esempio del Museo della Scienza. Quando abbiamo portato il sottomarino Toti, abbiamo creato un gruppo che si è chiamato Toti Team, tutti ragazzi giovanissimi, un entusiasmo incredibile, non c'era orario, non c'era niente, era il problema: dobbiamo fare questa cosa. Certo. E hanno messo tanto di quel cuore e tanta di quella passione che hanno dimostrato che si riescono a creare i team. Certo che quelli che potevamo gli abbiamo dato dei contratti più stabili piuttosto che tutti, perché tutti non potevamo farlo, ma perché loro avevano dimostrato questo attaccamento. Quindi ecco perché dico investire fortemente, perché i ragazzi, anche che quando escono dall'azienda e vanno a fare qualcosa di sociale, ci mettono del grandissimo impegno. Milano è la prima città sul sociale, possiamo dire forse anche in Europa. Ecco, vuol dire che è piena di ragazzi che fanno delle cose meravigliose. Ecco, facciamo che anche queste cose meravigliose abbiano la stessa passione, lo stesso entusiasmo all'interno dell'azienda. Facciamo in modo che se io devo premiare uno quando uno ha già pagato tutte le tasse possibili e immaginabili e debba prendere un premio, lo premia sul netto dello stipendio e non debba più pagare un centesimo di imposta. Perché se io do un premio di 2.000 euro a una persona che ha lavorato bene, ne prende 900. Certo. E allora, scusate. E a lei magari costa 3.000 perché poi, esatto, deve pagare. Il rapporto, anche... guardi, la gente forse non lo sa, 1.000 euro che una persona prende costano 3.200 euro all'azienda. Dove vanno queste 2.200 euro? Allora io dico, ministro Fornero, perché non facciamo che a fronte di 1.000 euro ne diamo 1.200 e mi fai costare 2.200 e quindi prendi 1.000 euro di oneri sociali? Facciamo questa scommessa sul cuneo, se no questi staranno a casa e a casa non prendi né 1.000 né 2.000. Indubbiamente, cioè, potrebbe sembrare una soluzione facile, purtroppo il vincolo dei conti pubblici è tale, creato negli anni, creato nei decenni, nel passato, questo debito pubblico che è ormai una montagna che sembra difficilissimo da aggredire, crea un vincolo. Forse guardando un po' al passato, chi ci ha governato in passato doveva essere un po' più prudente nel finanziare anche le proprie campagne elettorali con i soldi pubblici, perché abbiamo un debito pubblico talmente vasto che non l'abbiamo creato noi, l'abbiamo creato forse noi quando eravamo più giovani, cioè i politici che c'erano quando negli anni 70-80 facevano le pensioni d'oro e queste cose qua. È come chi è andato in pensione a 40 anni. Lui non c'entra perché la legge lo permetteva, ma in termini macroeconomici ha rubato per 30. Allora, una cosa conclusiva, dottor Michele Perini, presidente della Fiera di Milano, comunque dobbiamo essere ottimisti su questo paese, guardando al sistema delle imprese, guardando al sistema delle fiere, guardando alla proiezione internazionale di questo paese, di queste, delle nostre aziende. Io dico di sì, abbiamo delle eccellenti opportunità, dobbiamo fare in modo che ci sia più semplicità, dobbiamo fare in modo che la burocrazia esca laddove è inutile, dobbiamo fare in modo che le persone possano essere valorizzate. Chi lavora bene deve guadagnare e deve poter permettersi una vita più che dignitosa, una bella vita, io dico. Se i regolamenti e le cose che abbiamo non lo permettono, qualcosa è sbagliato, non certamente tra l'imprenditore e il lavoratore. Grazie, grazie a Michele Perini, grazie anche per questo ottimismo della volontà, possiamo chiamarlo così. Michele Perini, presidente di Fiera di Milano, è stato con noi oggi, così come ringrazio Filippo Regi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.